Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere festeggiamo un compleanno, quello del personaggio di un videogioco che in quasi 30 anni di vita è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, specchio delle trasformazioni di un settore e delle abitudini del consumatore di riferimento. Fa l'idraulico, ha i baffi e ha un nome italianissimo. Vabbè, troppo facile, avrete già indovinato, ve lo sveliamo comunque tra pochissimo. Si chiude lunedì Milano Moda Donna, l'evento che trasforma Milano nella capitale mondiale della moda. Vi raccontiamo un'iniziativa rivolta ai giovani declinata sulla sharing economy. E poi nuovo appuntamento con la nostra rubrica Su due ruote Bikeology, focus sui trend dedicato invece alla procreation, e per la riflessione finale spazio ad un libro che racconta il nuovo paradigma economico in arrivo. Un paradigma in cui il capitale sociale vale tanto quanto quello finanziario, l'accesso prevale sul possesso, la sostenibilità sul consumismo e la cooperazione sulla concorrenza. Un'utopia? Niente affatto, se a dirlo è uno dei più brillanti pensatori del nostro tempo, consulente dell'Unione Europea e di leader di vari paesi del mondo. Possiamo crederci. Nove anni fa nasceva Super Mario Bros, l'idraulico baffuto, salopette blu, maglietta e cappellino rosso, il videogioco per eccellenza, la serie più venduta di tutti i tempi, con oltre 250 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Una vera e propria icona, un fenomeno di costume che con la sua storia racconta anche la storia delle trasformazioni di un settore e delle abitudini dei consumatori di riferimento. Ne parliamo con Andrea Persegati, che è il direttore generale di Nintendo Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ripercorriamo insieme le tappe di questo successo, a partire proprio dagli inizi. In quale contesto si colloca la nascita di Super Mario? È nato all'interno della, forse della prima console portatile che all'epoca Nintendo aveva introdotto sul mercato, ed era un carattere difficile da definire, con i pixel molto grossi, molto poco connotato. È cresciuto all'interno delle console successive, diventando ora, oggi come oggi, un personaggio definito, quasi vivo sullo schermo della console con cui si gioca, e ha seguito nella crescita generazioni e generazioni di videogiocatori fino ad oggi. Erano gli anni di Pac-Man, anche per citarne un altro, ed erano gli anni in cui si andava in giro con il Walkman, con i floppy disk per il computer. Era proprio a livello tecnologico quasi un millennio fa. Sì, è vero, i videogiochi di una volta, perché dobbiamo esprimerci in questi termini, erano videogiochi a scorrimento orizzontale, in cui questi personaggi poco definiti, che avevano vagamente le sembianze di esseri umani o di sfere, se parliamo del Pac-Man, si muovevano in orizzontale, saltavano, andavano da un livello all'altro e cercavano di combattere con dei mostri. Pian pianino le cose sono evolute, da un videogioco in cui l'obiettivo era scorrere da una parte all'altra, siamo entrati nei videogiochi tridimensionali, con delle grafiche assolutamente realistiche, in cui i personaggi si muovono all'interno di veri e propri mondi, e consentono di fare delle esperienze e delle scoperte assolutamente sbalorditive rispetto a quelle che si potevano fare agli albori del mondo videoludico. Far sì che un videogioco diverta è tutto meno che banale, è una cosa estremamente complessa, è una cosa che richiede sforzi, approfondimenti e studi sul comportamento. Il divertimento non è una cosa facile da studiare, da analizzare. Chi sta dietro Super Mario e chi lo disegna, che poi oggi è esattamente chi l'ha disegnato 29 anni fa, che è Shigeru Miyamoto, è sempre riuscito a far sorridere il consumatore. Si parla molto di gamification, cioè dell'utilizzo delle dinamiche di gioco, molte delle quali provenienti proprio dai videogiochi, penso ai livelli, penso ai premi, eccetera, in ambiti non ludici, quindi l'educazione, la sensibilizzazione sociale, ad esempio, o addirittura l'organizzazione aziendale. Ecco, questo per voi è materia di studio, di sfida, è un tema che avete ben presente? come Nintendo è una strada che abbiamo intrapreso da tempo, nel senso che forse siamo stati noi i progenitori dell'utilizzo del videogioco non solo come strumento prettamente ludico, ma come strumento anche che avesse delle funzioni parallele. L'educazione, l'imparare l'inglese, piuttosto che, non so se lei si ricorda, l'allenamento del cervello con brain training un po' di tempo fa. È una verità assolutamente non in discussione che fare qualche cosa divertendosi la fa fare molto più volentieri che se uno la deve fare per routine o perché è obbligato a farlo. Il videogioco è un nuovo medium che, passando dalla sola dimensione videoludica, ne ha assunte delle altre e, in virtù delle sue caratteristiche intrinseche, riesce ad affermarsi, come lei giustamente premetteva, in dimensioni che fino a un po' di tempo fa sembravano totalmente avulse dal videogioco stesso. Grazie ad Andrea Persegati per essere stato con noi. Prego, grazie a voi. Bikeology. La bicicletta come oggetto simbolo dei nuovi stili di vita e di consumo è la filosofia che ispira questa rubrica tutta dedicata al mondo delle due ruote. Diamo il benvenuto a Paolo Pinzuti di bikeitalia.it. Ciao Paolo. Buongiorno Maria Luisa, buongiorno. A 20 giorni di distanza da Eurobike, la fiera della bici più grande al mondo che si tiene ogni anno in Germania, questo weekend è protagonista invece Padova con Expo Bici. Paolo, tu ti trovi proprio lì? Sì, esattamente, mi trovo tra il padiglione 6 e il padiglione 8, a dire la verità. Che cosa vedi? Ma allora, vedo fondamentalmente confermate quelle che sono le tendenze che sono emerse dalla fiera di Friedrichshafen in Germania verso nuovi stili di concepire la bicicletta. Uno in particolare, l'avvento delle fat bike, che sono queste mountain bike con le ruote particolarmente grosse. Poi c'è sicuramente il tema delle gravel bike, che sono delle evoluzioni delle biciclette da cross, da ciclocross. E poi c'è tutto il discorso del ciclismo urbano, che sta diventando sempre più importante per quanto riguarda anche quelli che sono poi le realtà produttive, non solo italiane ma anche straniere, quindi c'è molto interesse sul punto. Quindi un'attenzione anche per quel che riguarda l'offerta dei produttori all'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto. Assolutamente sì, questo è un trend inconfutabile, infatti fa molto piacere notare che c'è un'apertura da questo punto di vista anche degli italiani a un nuovo segmento che per noi è tradizione, che però si sta allontanando un po' da quelli che sono i classici schemi, ovvero del Giro d'Italia e della classica immagine che tutti noi conosciamo di Bartali che passa la borraccia a Coppi o viceversa. Paolo Pinzuti, grazie, alla prossima. Grazie a te, alla prossima. 138 collezioni per 36 eventi, lunedì si chiude Milano Moda Donna, 6 giorni aperti anche al grande pubblico e alle contaminazioni tra il mondo della moda e quelli dell'arte, della cultura, del cinema. Anche la moda dunque si apre alla condivisione. Vogliamo segnalarvi un'iniziativa alla quale abbiamo partecipato con molto entusiasmo, è un contest per gli studenti delle scuole di moda all'insegna della sharing economy. Immagina, progetta, racconta il tuo servizio collaborativo per il mondo della moda. Il concorso è promosso da Adecco Formazione, è stato lanciato nell'evento Sharing Fashion per Camera Nazionale della Moda insieme a Collaboriamo, piattaforma di informazione e servizi sulla sharing economy in Italia, e Wowcracy, primo sito di crowdfunding specializzato nella moda, sul quale i tre progetti vincitori lanceranno poi la propria campagna. Lucas Vigliocco, co-founder di Wowcracy. Sì. Daremo la possibilità ai migliori progetti di essere seguiti in una consulenza che aiuterà a strutturare un progetto di crowdfunding completo, quindi li aiuteremo a creare un video, capire qual è lo storytelling migliore da utilizzare, li aiuteremo nella creazione dei reward e dei testi. Come funzionano le campagne su Wowcracy? Lo puoi sintetizzare? Certo, allora le campagne su Wowcracy hanno un modello di crowdfunding reward base, quindi sostanzialmente hanno tutte un tempo limitato, hanno un obiettivo economico da raggiungere, e questo obiettivo economico viene raggiunto tramite le preordinazioni dell'utenza. Possono essere o prodotti o anche esperienze. Cambiamo argomento: vendere il fresco online, una sfida che Amazon ha intrapreso da tempo negli Stati Uniti, la declinerà presto anche in Europa, in Inghilterra è già arrivata, un'opportunità anche per i consumatori italiani e per le start-up di casa nostra. Codice a barre di Cristina Lazzati. Sempre più italiani cercano e comprano anche l'alimentare sul web. Non possiamo ancora parlare di grandi numeri, ma la crescita, secondo i dati Nielsen, è del 18% e il giro di affari intorno ai 132 milioni di euro per il 2013. D'altra parte, l'offerta è ancora limitata, ma molte le start-up che si affacciano su questo mercato ancora vergine. Tra le più recenti, mysmartfood.it, che oltre all'ortofrutta, tutta emiliana, offre anche consigli dietetici e nutrizionali. Nel milanese, ma meno recente, nata comunque nel 2013, Cortiglia, 30.000 iscritti e una trentina di produttori agricoli, tutti nel milanese, che garantiscono il rispetto della stagionalità e freschezza dei prodotti, frutta, verdura, ma anche uova, pane e marmellate. Anche la capitale al suo sito si chiama zolle.it, agricoltori al 90% laziali in home page e consegne in bicicletta, così si evita il traffico romano e si rispetta l'ambiente. Ritorniamo verso nord e troviamo BioExpress, cooperativa altoatesina specializzata in freschi biologici da tutta Italia. Ma non solo bio, anche il gourmet sembra vivere benissimo sul web, e così Quali Vita, Lorenzo Vinci e Tavola Clandestina sono solo alcuni esempi di e-commerce gourmet con i loro scaffali virtuali pieni di vini, conserve, birre artigianali, pasta e quant'altro. Vi ritenete dei foodie ma avete poco tempo? La selezione ve la fa Originario, che propone ogni mese un box con cibi selezionati dalle Alpi a Pantelleria, raccontati dagli stessi produttori in short movie sul sito. Ancora storie narrate, questa volta sullo spartito di turismo e prodotti, e concentrate sul Farmense per Made in Parma, spin-off di Università Ducale. Infine, italiani all'estero, a Berlino è nato Marzapane, che con il suo sito propone menù rigorosamente pugliesi in scatola. Dall'orto al web, una nuova filiera alle porte, su GDO Week di settembre. Essere e avere. Focus sui trend. La settimana che segna l'inizio dell'anno scolastico per molti studenti ci ha dato lo spunto per parlare di nuovi modi di intendere l'educazione e la formazione. È procreation la parola chiave della tendenza di questa settimana, un fenomeno che passa attraverso nuovi percorsi e formule di apprendimento, nuovi saperi anche da riscoprire come quelli legati all'artigianato e ai mestieri antichi, e nuovi modi di vivere l'arte e i consumi culturali in genere. È un processo, quella della procreation, che stimola l'intelligenza e la creatività dei consumatori, dando vita a progetti di consumo, di comunicazione e di vendita. Ne parliamo con Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Sabrina, ben ritrovata. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Partiamo dalla definizione e dallo scenario di riferimento di questi processi procreativi. Certo, stiamo parlando di condivisione, di rilancio della conoscenza, e contemporaneamente si estende la logica della proattività, quindi della capacità personale nell'essere attivi e partecipi, riconoscendo una dimensione centrale al talento. In che modo questa tendenza incrocia il mondo dell'artigianato, dei vecchi mestieri? Incrocia il mondo dell'artigianato perché anche i processi procreativi vengono riattivati nel recuperare il lavoro dei vecchi mestieri fra arte e artigianato. Anche le aziende si stanno accorgendo di questo grande potenziale. Oltralpe si inaugura proprio questo mese di settembre l'Istituto dei Mestieri d'Eccellenza, è un programma di formazione professionale firmato LVMH, la grande holding del lusso, e molte esperienze abbiamo anche qua in Italia. Pensiamo della scuola di orologeria di Milano, che è una sinergia fra orologi e delle aziende importanti nel settore. oppure Bottega Veneta, che ha aperto una scuola di pelletteria in collaborazione con la scuola d'arte e mestieri. Altro esempio a Solomeo, il Borgo Umbro, restaurato da Brunello Cucinelli, che ha avviato una scuola dei mestieri dove non solo vi sono gli indirizzi rammendo e riammaglio, taglio e confezione, ma anche orticoltura e giardinaggio e arti murarie. Abbiamo accennato in apertura a una ricaduta anche nel mondo dell'arte e dei consumi culturali. L'arte, nella sua accezione più ampia, si fa maestra proprio, e in particolare nei giardini della Biennale c'è questa installazione di Daniel Libeskind, l'architetto statunitense di origine polacca. Per questa installazione, che presenta 100 disegni serigrafati su grandi lastre di vetro, retroilluminati e commentati da suoni e musica, lui ha coinvolto gli studenti dell'Università di Architettura di Venezia, quindi futuri, un gruppo di futuri architetti, invitandoli a scegliere uno dei disegni della serie per cercare delle equivalenze poetiche, delle corrispondenze fra immagini e realtà dello spazio fisico. Li ha invitati a camminare per Venezia, fotografare, ispirandosi a queste immagini, a questi sonetti. Ecco, questa creazione partecipata, proattiva, arriva anche nel mondo dei prodotti stessi, della vendita, del retail. Sì, educazione, procreatività e consumi sempre di più percorrono insieme questa strada. In questo caso si utilizza la sfida della proattività coinvolgendo in modo creativo e partecipativo clienti e consumatori. Ti faccio qualche esempio: un'app che è stata premiata da Apple come app dell'anno nel 2013, Duolingo, è un'app gratuita per imparare le lingue. L'utente può imparare e praticare una lingua straniera e in cambio, naturalmente quando il livello di apprendimento raggiunge un buon livello, traduce delle frasi, dei passaggi che vengono poi votati e corretti da altri utenti, per cui poi alla fine il testo viene proprio affinato, e quindi Duolingo è in grado di vendere traduzioni per siti internet vari, ma anche la CNN per esempio. Un'altra esperienza interessante degli ultimi mesi, in TOG, è stato presentato all'ultimo Salone del Mobile qua a Milano. Ogni prodotto può essere acquistato in negozio online e personalizzato dall'acquirente in diversi modi, scegliendo colori, forme, stampe, oppure optando anche per l'intervento di un artista, anche qua attraverso un'app dedicata. Un ultimo esempio, un evento che si è tenuto a fine aprile a New York, ma che si ripeterà in altri appuntamenti, un nuovo tipo di evento tra consumo e sviluppo della conoscenza, si è intitolato Raising the Bar. È un evento che ha portato professori della Columbia University e della New York University in 50 bar in tutta la città. Raising the Bar è anche un gioco di parole, perché Raising the Bar vuol dire alzare l'asticella, quindi in qualche senso alzare la sfida educativa, che è possibile solo attraverso una partecipazione attiva. Crediamo che queste siano le sfide, le frontiere della creatività e dell'educazione del futuro. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio il nostro ospite fisso, siamo alla riflessione finale in compagnia di Francesco Morace. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Oggi parliamo di un libro che, a mio avviso, ma non solo nella mia opinione, insomma, detterà la linea in qualche modo nei prossimi mesi per le analisi sul mondo dell'economia e dei consumi e sulle grandi trasformazioni in atto. La società a costo marginale zero di Jeremy Rifkin racconta la rivoluzione in atto nel nostro modo di produrre e consumare. Francesco. Sì, la cosa molto interessante di Rifkin è che questi ragionamenti lui li fa da moltissimi anni, e quindi questo è anche un momento, e lui lo dice nel libro, di sintesi di tanti altri libri e di tanti altri percorsi che lui ha attraversato. La cosa che mi sembra molto importante in questa rubrica che si chiama Consumatori è ricordare che Rifkin usa un altro termine, che è prosumer, quindi produttore consumatore, prendendolo a prestito da Toffler, che forse è il padre della futurologia, che in un libro addirittura del 1970, che si chiamava Lo shock del futuro, propone questa visione del prosumer. Quindi Rifkin mette al centro del proprio scenario, in un modo molto americano, quindi anche con molto ottimismo e con una visione molto lunga, i cittadini che sono consumatori, produttori e protagonisti di questa grande rivoluzione. Il commons collaborativo, questo è il nome che dà Rifkin a questo nuovo paradigma economico, che secondo lui porterà ad una drastica riduzione della disparità di reddito, democratizzando l'economia globale, dando vita ad una società più sostenibile a livello sia sociale che ambientale. Lo hai detto poco fa, una visione molto ottimistica, ci crediamo? Io credo che dobbiamo crederci e dobbiamo anche confrontarci con questa ipotesi. Allora Rifkin dice: in realtà il meccanismo della rete, che ormai conosciamo bene, perché internet ormai fa parte della nostra vita, si evolverà anche coinvolgendo il mondo delle fonti energetiche, che evidentemente è alla base delle nostre attività quotidiane, quindi un internet dell'energia, e naturalmente continuerà anche ad essere un mondo di informazioni condivise, quindi un internet delle cose. Ogni prodotto sarà intelligente, avrà un chip, racconterà la sua storia, sarà protagonista. Un internet dell'energia è un internet dell'informazione. Cambia completamente la visione capitalistica classica, no? Dove da un lato il profitto e dall'altro il capitale sono i pilastri su cui la nostra società funziona. Lui dice: dovremmo invece immaginare, non scomparirà il modello capitalista, ma non sarà né l'unico e forse neanche il più importante. Ecco, in questo modello di economia ibrida, quindi una parte orientata, come diceva, al mercato capitalistico, un'altra al commons collaborativo, in cui il capitale sociale avrà la stessa importanza, se non un'importanza superiore, del capitale finanziario, l'accesso prevarrà sul possesso e quindi ci sarà un grande protagonismo di quella che viene definita la sharing economy. Assolutamente, questa è una delle cose che Rifkin ha proposto ormai già quasi 10 anni fa in un altro libro che si chiamava L'era dell'accesso, a cui è stato dato abbastanza poco credito, devo dire, soprattutto in Italia, sembrava un'utopia. Oggi sappiamo tutti come questo stia cambiando la nostra vita. Grazie a Francesco Morace, grazie a Pietro Lacorte in regia. Pagina programmi di radio24.it per riascoltare e scaricare questa come le altre puntate. Pagina Facebook di Essere Avere per tutti gli approfondimenti. A sabato prossimo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.